Ma Dio non esiste. Dio spray. Complecagna 2024. Ma Dio non esiste. Venerdì 13-12. Dalle 19, festa da parrocchia. Annunciazione, annunciazione! Cena a cura di Tana Libera Tutto. Non scandalizzatevi. A seguire, incursione e grande annunciazione della compagnia teatrale Cagna Maledetta, Cagna Benedetta. E ancora, Holy Lesbian Ritual. Segue il tradizionale karaoke a tema anticlericale. Prepara il tuo pezzo forte. E poi, per muovere i culi, DJ set con le Britney Beaches e Easy Peasy. Venerdì 13 dicembre dalle 19, via Ostiense 137B, dalle Cagne Sciolte. E se fa freddo, c'è il free shop. Scandalizzatevi. Dio così non esiste. Dio spray non esiste. Non c'è niente da giubilare. Dio spray.